la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, Radio 24, 16:37, primi 45 secondi. Oggi siamo ancora più in ritardo del solito, vado subito al punto. Chiamate, perché la trasmissione oggi è concepita solo per sentire le vostre opinioni, quindi 800 24 00 24, sullo sciopero generale di oggi in corso, CGIL UIL. Qualunque cosa pensiate, a favore, contro, pensiate che sia sacrosanto e condividete la ragione, sapete che è uno sciopero generale di tipo politico nei confronti del governo, qui non si tratta solo di ribadire quello che pensano i sindacati critici che hanno animato lo sciopero nei confronti del Job Act e di questo o quel provvedimento, è un giudizio netto rispetto a come il governo ha chiuso la porta alle trattative preventive con il sindacato. Quindi chiamateci in ogni caso, se siete critici ci spiegherete perché, se siete a favore ci direte perché. Io nel frattempo che arrivano le telefonate 800 24 00 24, mi limito a sottoporvi alcuni spunti. Per esempio, stamattina, secondo me, sul Corriere della Sera, Dario De Vico scriveva un articolo. Dario De Vico è un collega che io stimo molto, si è impegnato in questi anni in questo filone di rubriche e di blog, si chiama La Nuvola del Lavoro, in cui dà molte notizie dai territori, dalle imprese, su cosa succede davvero, al di là delle semplificazioni nazionali, politiche e sindacali. E scriveva stamattina Dario De Vico: c'è un punto su cui riflettere, cioè il rito dello sciopero generale politico nei confronti dei governi, da una parte è pienamente legittimo che i sindacati convochino scioperi generali per fini politici, ma dall'altro, diceva Dario De Vico, c'è anche un sindacato che appartiene alle stesse confederazioni, non è che venga dalla luna, che poi sui territori, nelle imprese, fa accordi mostrando concretamente una disponibilità a intendersi su turni, orari, scambio tra minor compensi e occupazione aggiuntiva, che fa un pochino a pugni con quello che poi i sindacati dicono a livello nazionale. E si chiedeva, Dario De Vico stamattina, ma non sarebbe meglio avere un po' più di spirito che rispecchi questa disponibilità della stessa CGIL, anche la CGIL firma accordi di questo tipo. Dario De Vico scriveva stamattina a proposito di un accordo che si è firmato pochi giorni fa in un'azienda importante e che ha una storia, l'azienda Carraro in Veneto, con un imprenditore anche che è stato simpatizzante della sinistra, sia pur moderata, riformista, ma insomma. E appunto diceva Dario De Vico: come si mettono insieme i toni estremi che la Camusso, che l'Andino legittimamente usano contro Renzi e il governo, con poi la disponibilità mostrata su accordi nei quali in realtà ci si scambia proprio le cose che poi anche a livello nazionale i governi dicono che è utile scambiarsi. Questo è un primo tipo di riflessione. Altro tipo di riflessione, la coda di quello di cui abbiamo parlato ieri. Sapete che poi nella serata di ieri il governo, che aveva precettato due giorni fa i lavoratori nel settore dei trasporti che aderivano, avevano proclamato lo sciopero generale, e aveva detto il governo, il ministro Lupi, raccogliendo l'opinione dell'autorità garante sugli scioperi, che nei trasporti lo sciopero generale di oggi non si doveva fare, quindi chi si fosse astenuto veniva precettato, veniva quindi invitato dai prefetti a lavorare, a garantire il servizio. Allora, la reazione dei sindacati è stata molto dura, perché ieri i sindacati sono insorti dicendo: questo è un comportamento politico antisindacale. La novità ieri nel tardo pomeriggio, nella serata, è stata che il Presidente del Consiglio ha fatto fare marcia indietro a Lupi. Allora, la marcia indietro in realtà dava ragione ai sindacati, che sostenevano: quindi avevate detto no, ma per un ragionamento politico. L'autorità garante, a mia modestissima opinione, invece, bastava leggere i comunicati, semplicemente si riferiva alla legge, cioè la legge vigente, che non impedisce affatto gli scioperi, ma che chiede delle norme elementari a tutela dei cittadini nei servizi pubblici. Beh, la legge prescrive, per esempio, che nei settori dei trasporti non si possono tenere scioperi se non a un intervallo di 10 giorni nei trasporti uno dall'altro. Quindi il primo che proclama uno sciopero, qualunque sigla sindacale, se lo fa nei trasporti, chiunque altro lo proclama dopo poi deve aspettare 10 giorni per farlo anche lui. E purtroppo, prima dello sciopero generale convocato la CGIL, a cui si è aggregata la UIL, Nei trasporti altre sigle sindacali avevano proclamato delle manifestazioni di sciopero per il 14 e il 15, quindi il garante diceva: io ai sensi di legge devo dire che non potete farlo, dovete spostarlo nel trasporto. Di qui la prescrizione. Naturalmente il governo ha fatto marcia indietro, e dite anche su questo come la pensate, perché la mia impressione è che la marcia indietro del governo, legittima anche essa, perché Renzi avrà pensato che non bisognava incrudire troppo il rapporto con il sindacato, però di fatto è un precedente che noi utenti, cioè chi usa la metropolitana come me, i treni e così via, come milioni e milioni di italiani, e d'ora in poi devono aspettarsi che quella norma elementare di garanzia e anche rispettosa dei diritti dei sindacati, cioè quella per cui bisogna aspettare 10 giorni tra uno sciopero e l'altro, e non vale più da oggi. È una cosa positiva in nome della difesa del diritto sindacale a fare tutte le manifestazioni che si vuole, anche violando, ripeto, la legge? Ecco, io su quello ho dei fortissimi dubbi, a dire la verità. Allora, una prima chiamata, c'è Sauro da Roma. Prego, Sauro. Salve, buongiorno Giannino. Buongiorno. Senta, io sono appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino e ovviamente sono incazzato nero, perché io viaggio spesso e anche oggi abbiamo avuto disagi. E 15 giorni fa ci hanno tenuto per ben 2 volte di fila da Roma in aereo per 1 ora e mezzo. Noi siamo in giro a lavorare come tante altre persone, come quelli che stanno facendo lo sciopero, e anche noi stiamo cercando di fare le nostre battaglie per avere un'Italia un po' meglio di quella che stiamo vivendo adesso, che è veramente uno schifo. Però questo non significa che io vado a rompere le scatole al signor Landini perché deve andare in ufficio e lo tengo senza poter andare nel suo ufficio, o a qualcun altro di questo tipo. Ci sono tutte le leggi adatte, si va a votare quando si vuol votare, poi dopo quando si è votato si sta quello che viene, si può protestare, si può fare quello che si vuole, si può raccogliere le firme, ci sono tanti sistemi, ma non si va a rompere le scatole al resto dell'Italia che forse non la pensa come te, perché alla fine hanno ragione anche i terroristi, e loro combattono per una causa che per loro è giusta. Allora, per chi è giusta questa causa? Per tutti? Bene, si combatte tutti. Se non è per tutti, le minoranze, per favore, facciano le minoranze. Non si discriminano le minoranze, ma non devono diventare maggioranze, perché facendo così sono maggioranze. Cioè non fanno che danneggiare tutto il resto del paese. Sauro, che devo dire? Io in minoranza, ma la penso un po' come lei. Io penso che gli scioperi sono legittimi, ma ho sempre detto ci sono tantissimi paesi avanzati in cui nei servizi pubblici, e in particolare tra i servizi pubblici ci sono quelli fondamentali come il trasporto, ma nei servizi pubblici fondamentali c'è la garanzia dell'offerta di acqua ed elettricità, ma il trasporto è la stessa cosa, non è diverso. Tantissimi paesi hanno delle regolamentazioni a tutela dell'universalità dei cittadini che sono enormemente più restrittive delle nostre, e non sono paesi autoritari e dittature, sono paesi democratici. Allora, questa è la mia opinione, so che sono in minoranza. Moltissimi comunicati oggi, anche su Twitter, la CGIL è molto attiva oggi, va segnalato, quelle nazionali ma anche quelle regionali, in risposta a tweet come quelli di Sauro che ci ha telefonato, dicendo: dovete capire, noi capiamo i vostri disagi, cari passeggeri, però ci stiamo battendo anche per i vostri diritti. E ricordano nei tweet, ce ne sono tantissimi se guardate Twitter della CGIL, ricordano anche che naturalmente chi sciopera oggi rinuncia ai soldi di oggi, quindi dovete capire che lo facciamo ed è anche un sacrificio, non per piacere. Io non discuto queste cose, però bloccare un paese. Poi, altro argomento che vi segnalo prima della nuova telefonata, il 70% di adesioni, tutti i media ripetono la percentuale del sindacato, è una vecchia trappola dei media questa, quindi secondo me la colpa è di noi giornalisti, perché 70%, ma su che base è fatta questa percentuale? Però detto questo, non voglio sembrare l'ipercriticone, tra 60 secondi torniamo sentendo Nicola da Milano che è in linea, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando dello sciopero generale di oggi. Comunque è uno sciopero generale che riesce questa volta, questa è la mia valutazione personale come giornalista, cioè mentre quando ci fosse Piazza San Giovanni la Camusso da sola Renzi si rafforzò, quell'atmosfera cambiata con gli scontri a Roma, Piazza Indipendenza, i lavoratori di Terni, con Landini che fu abilissimo nell'alzare il livello dello scontro, non perché cercò lui lo scontro ma nel gestirlo, perché poi Landini in questo è bravo, da allora in poi è cambiata l'atmosfera. Oggi questo sciopero generale, effettivamente vedendo le piazze, la partecipazione e così via, è un'espressione di forza della CGIL e della UIL, mentre invece San Giovanni era un'espressione di debolezza. Questa almeno è la mia impressione. Un po' di sms vostri di opinioni diverse. C'è chi scrive, Andrea da Modena, a che serve lo sciopero sul Joe Biden se la legge è già stata fatta e approvata? Non era meglio farlo prima? È infatti uno sciopero politico, Andrea, non è più nemmeno sul merito della legge, sulla quale ovviamente la CGIL resta contraria. Ci dice Daniele da Caserta, opinione diversa: penso che sia sacrosanto lo sciopero di oggi perché sono convinto che togliere i diritti non risolve alcunché, non solo sfavorire i soggetti più deboli, cioè i lavoratori, impoverisce l'intero paese. Questo Daniele. Scioperare un giorno non serve a nulla, ci dice un altro ascoltatore, se non hai leader dei sindacati bisogna fermarsi un'intera settimana se si è convinti di avere ragione, e allora forse si smuove qualche cosa. Naturalmente se si è convinti di avere ragione a quel punto diventa molto delicato. Paola dà una risposta alla domanda di Dario Di Vico: come mai gli stessi sindacati fanno accordi di flessibilità e poi a livello nazionale invece dicono peste corna? Paola dice, saggia secondo me Paola, gli accordi li fanno firmare ai delegati, così loro a livello nazionale non ci perdono la faccia. Sentiamo come la pensa Nicola da Milano. Prego Nicola. Buonasera Giannino. Buonasera. Tralascio i complimenti e vengo subito al punto. Sono un lavoratore dipendente di una grande azienda, non me ne frega assolutamente niente dell'articolo 18, ritengo che sia, sono indignato con i sindacati che si stanno comportando come un partito politico senza essere stati votati. Veramente hanno fatto questa cosa di aver tolto i diritti a delle persone, la ritengo un falso problema, e peraltro nella mia azienda sicuramente non voglio dire che eravamo tutti a lavorare, ma quasi, e quindi questo 70% nei servizi pubblici, alle poste, alle ferrovie, mi chiedo dove sia, anche perché lavoro in una grande azienda e vedo benissimo come si comportano i singoli sindacalisti all'interno del non troppo bene, lei dice. Ho visto di tutto in 25 anni, veramente ho visto di tutto, e sentire la Camusso che parla di lavoratori mi fa venire l'orticaria. Ripeto, sono un lavoratore dipendente, ho la fortuna di avere l'articolo 18, ma se me lo togliessero non ne farei un dramma. Allora Nicola, molti degli messaggi sono sul filone della considerazione che hai fatto tu, ma quel 70% è nei servizi pubblici, ci tenevo solo a dirlo perché ce ne sono tanti. Per esempio, ne leggo uno a casa: chi non può essere licenziato vede i trasporti pubblici, sciopera, sì, magari sono anche il 70%, in realtà secondo me se non può essere licenziato, non capisco, secondo me dovrebbero anche limitarti il diritto di sciopero. Questo è un ascoltatore. Sentiamo come la pensa invece Massimo da Roma. Prego Massimo. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io invece sono a favore di questo sciopero proprio perché è politico, come ha detto lei, perché credo che rappresenti veramente la difficoltà senza precedenti quasi, e i lavoratori dipendenti, quelli rappresentati da questo sciopero, stanno vivendo da anni. Quindi è politico anche per le scelte fatte dal governo. Io non entro nel merito del Job Act, sì. Però certamente credo che oggi a questa solidarietà, diciamo, di questa manifestazione, si vadano a saldare larghe fasce della popolazione colpite dagli ultimi eventi di corruzione. Insomma, la domanda è: vi impegnate a fondo su una riforma del Job Act? Chiamiamola riforma del lavoro, smettiamo di chiamare le cose in inglese, perché mi danno ancora più l'idea di una classe politica mediocre. Voi vi concentrate a fondo ancora una volta sui lavoratori, ma una legge contro la corruzione seria non viene fatta. Lei me lo insegna perché l'ho detto spesso, la corruzione e altri fenomeni di quel genere, la giustizia, incidono molto di più sulle nostre difficoltà di quanto... No, io devo dire la verità, non mi avete mai sentito dire da questi microfoni che l'articolo 18 è quello che bisogna cambiare, perché così innalziamo l'occupabilità come un moltiplicatore, perché i dati non dicono questo. Ma poi, per carità, rispetto all'opinione di tutte, il problema è che siccome Massimo ci aggiunge una considerazione utile, cioè il significato politico di questo sciopero è deliberato, e secondo me ha ragione Massimo nel dire che oggi ha più successo di quanto non sarebbe avvenuto qualche settimana fa, perché c'era quella reazione non solo a Roma, ma anche una parte di sinistra, che non ci si trova per niente nella politica di questo governo e di questo PD. Ecco, secondo me anche questo aspetto c'è. Sentiamo Ivano da Pescara. Ivano. Sì, buonasera Giannino. Senta, no, io volevo fare un flash su una cosa sentita qualche minuto fa. Un mese fa ero in Germania e in radio sentivo c'erano degli scioperi per i treni, scioperi per la Lufthansa che ci sono ancora. Ah, Lufthansa è andata avanti, ha messo in ginocchio il trasporto aereo tedesco, altro che. Esatto, ma non ci crederà, o almeno per me è stata una cosa clamorosa. Facevano i complimenti al nostro paese, all'Italia, e alla legge sulla regolamentazione del sciopero nei servizi pubblici, dicendo che ci sono delle fasce protette. Che vero. No, ma ho letto anch'io sulla stampa tedesca questa roba, perché Lufthansa l'ha messa un po' in ginocchio la Germania. Il problema è che noi quelle regole le abbiamo, però come vede oggi non valgono. Però grazie Ivano, perché questa testimonianza, non crediamo di essere gli unici a avere questi problemi. Anche in Francia, quando ci sono gli scioperi dei servizi pubblici, i lavoratori pubblici contano molto nella politica francese. Il sindacato nelle aziende private c'è molto meno che in Italia, ma nel pubblico molto, molto forte. Anche lì mettono il paese in ginocchio a volte. Sentiamo Riccardo da Milano. Buonasera Giannino, buonasera radio ascoltatori. Io, essendo diciamo un operatore nella grande distribuzione per una grossa azienda italiana, dove il sindacato è anche abbastanza presente, volevo far notare che secondo me i sindacati si muovono da un po' di tempo su una linea sbagliata, ovvero io non critico il diritto o meno di scioperare, certo. Non sono lì a fare l'avvocato delle cause perse, dico semplicemente che secondo me, visto e considerato il lavoro che fanno i sindacati all'interno delle grandi aziende, perlomeno nella mia, secondo me c'è qualcosa che non va, mi spiego meglio. La mia azienda fa tantissimo di straordinario all'anno. Sì. Ma tante, veramente tante. Devi essere più rapido e concludere. Sì, l'ispettorato del lavoro dov'è? Perché mi vuol dire che se noi facciamo troppe ore di lavoro, ci sarebbe più lavoro per tutti, certo. Di meno. Lo so, okay? Però sai, un assunto nuovo costa di più degli straordinari a chi c'è già, questa è una vecchia regola. Grazie anche a Riccardo e scusate tutti coloro che volevano, io oggi non c'è ospite, ma il programma dura poco, continuate con la 24 e soprattutto domani mattina dalle 10 alle 12, Conti della Belva!